CR7, CR7, attento CR7, attento Ronaldo, attento Ronaldo. Come è becca? Oi, è me. Scritto, va a c'era un paio di saldature. Salda, va. Per vedere se riesco a allineare con l'alternata. Ma... no, va a vedere. Da quello, dal vecchio, mi. Tutto bene, va? Tutto ok. Sto scendo? Sì, proprio in basso. Questo no, sto usando il valvolare. Molto bassa è la radio. Rispetto all'altra sì. Vabbè, senti alternata ancora con questo microfono? No, non sento alternata io. E quindi è il microfono proprio questo. Questo è, ho cambiato solo le connessioni di un microfono che avevo, di questi originali, del Galaxy. E quanto fare non lo fa. Invece l'altro ho rifatto le saldature, l'originale è sempre alternata. Devo sempre mettere la mano sullo spinotto, come gli do un po' di terra, io con la mano smette di fare alternata. Non deve essere schermato bene quel microfono, dai. Le connessioni le ho risaldate, a meno che non sia all'interno del microfono. Però sì pure, sia così. Adesso provo, lo riprovo, l'originale. Senti anche se esce più forte o più basso di radio. Questo è l'originale, dai. Come va? Barattoloso. Sì, vabbè. È un barattolo anche il microfono, è tutto vuoto dentro. Però come l'alternata la senti qua, vero? Così? Sì, così c'è l'alternata. Ti metto la mano sopra, lo spinotto. E non lo fa più, così esce meglio, vero? Confermi? E si conferma. E vabbè, pazienza. Da buttare questo microfono. E che microfono è? Non è l'originale del CTX, questo del 5000. Ma non è originale? No, no, questa è un'altra marca, è di un pacchio, figurati. Il pacchio era un'altra marca, te la ricordi? Ma il pacchio c'è... è un microfono a condensatore, quello. Ma, senza batteria, non c'è niente dentro. Sì, ma però... se non mi ricordo male, quello del pacchio, quello del Tokai, c'è il condensatore dentro. È per quello che ti fa alternare. Guarda, dai, vediamo un po' cosa c'è dentro. Controlla, ho detto, fra. Ho venuto, no, fra. Non va nulla dentro. Non vedi niente. Tutto nulla di nulla. Attaccato la capsula, non c'è niente. Niente. C'è la capsula che è enorme, avrà un diametro di 4 cm, 5 cm. La saldata, c'è la calza, ecco dove va. La calza è attaccata a un polo, appunto. Poi c'è il piattino del PTT che poi va con l'imarco. Da questo, qua. Sono tre sulla macchina, tre colori, quindi quattro punti. Non c'è altro dentro. C'è quella rotonda grande che è messa dentro una sede rotonda. Sì, è attaccata, no, si può anche attaccare, è in alluminio, la capsula, una parte è ambientata verso due parti, in alluminio, vedi che ha preso tutti, la macchiata, sai che l'avevo anche addrizzata un po', incollati fuori alla membrana, in alluminio. Ascolta, prendi un pezzettino di alluminio, di cucchia alluminio, un pezzettino, intanto per copri la capsula e i fili dove c'è la calza, il coso, le metti il coperchio dove se lo fa. Non toccare la capsula, tu prendi un pezzettino di cucchia alluminio, fagli una misura del tappo e copra la capsula e i fili, soprattutto la calza, glielo metti sopra e poi chiudi e riprova il microfono. E qua la prendo un po' di carta, la ricarta spagnola, come dice mia madre. Sì, carta spagnola, tutti alluminio, quello lì. Pezzettino, no, un filo solo però, non doppio, Lo metti sopra, ben messo, e poi chiudi il tappo, riprova il microfono. Però, là, dai, i poli, uno devo isolare, quello dove non c'è attaccata la calza, dai. Però, come dire, gli appoggio la spagnola sopra, mi prima l'uso, lo isolo con un po' di una titolante là. condivisore 1 e poi prova a porgergli la carta sopra. Perché cos'era? Senta, non era esatto il positivo del microfono? No, c'ha due saldature, capito? Dove ci sono attaccati i fili. In uno c'è il rosso più la calza e nell'altro c'è solo il rosso. Quindi adesso il rosso normale lo sto isolando e poi gli metto sopra la stagnola. Isolalo bene quel filo. Sì, che sentivo un fischio. Okay. Un fischio? Io non mi chiamo fischio. Sì, qualcuno che stava cantando. Stava cantando, fischiando. Lascialo fischiare. Prego. Ma lo senti il break? No, è vicino a casa tua, loro bottati. Boh, avanti il break. Quante a Sono Gianni con l'ala 38 portate, lo stavo provando, ti senti qua? Sì, già, ma appena appena ti sento, sì, ha ragione Claudio. È Gianni col portatile, Ocla. Ma Gianni chi? Gianni Rubrofetta? Scappa, mi sembra lui, dalla modulazione mi chiama Gianni Rubrofetta, sì. Però arriva qui un Santiago di zero, era una radio di uno, appena percettibile. Figurati a te, figurati a me. Prova Gianni. Ora 1, 2, 3, 1, 2, 3, sono con l'ala 38 dentro casa. Ah, ecco, per quello. Segnale 2, radio non ne hai. Comunque arrivi. K, era solo per vedere se il bambino funzionava. Funziona il bambino, mettilo in forno. Sì, adesso lo metto in parcheggio. Vabbè. Non so come molti fischiano, no? Fischiano poi c'è avanti e non entrano. Allora poi si aggiungono, mi chiamo Fruscio. K. Adesso sono con la base. Adesso sei 9:10. Bene, bene. Ho misurato il tubo l'altra mattina dove è attaccata l'antenna e lo posso alzare di un metro e venti. Sì, ma in tutto, con l'antenna al massimo, arrivare al tuo baracchino, quanto cavo serve? No, quello non ho misurato con precisione. No, sono salito solo sul terrazzo per vedere di quanto si può alzare l'antenna. Vabbè, linea di massima. Perché ho visto quanto ne ho di cavo, ma voglio capire se ti basta o se non ti basta, capito? Guarda, voce in tutto saranno 12-15 metri in tutto. In tutto, quindi, ma 15 metri, vabbè. Adesso misuriamo, guardiamo quanto c'è, ho visto ce ne va un po', speriamo che sia più di 15 metri, che magari se è troppo preciso può essere fastidioso, capito? Vabbè, ma io fra, sarà dove hai come microfono? Oh, io non lavoro di precisione, alta chirurgia, chissà. Così facevamo noi, come faceva alternata, sai che quello isola, no? Un isolatore, lo facevamo per non fare TVI, lo mettevamo sopra l'antenna, no? Dove c'è dove attacchi il cavo dell'antenna, lo isolavamo tutto con il cucchio alluminio, quindi prova, se va bene il microfono è chiuso, non si vede, lo puoi usare, no? No, quando lo chiudi non si vede niente, se funziona, no, ci vuole o portare un cavo di massa collegato dietro alla cassa dell'apparato, così sta sicuro che la massa ce l'ha e il rumore non è fa. Non provo le luci prima, poi vediamo. Chiudilo bene, mettilo bene l'alluminio sopra la capsula e sopra i fili che hai lì nella capsula. E poi proviamo, vediamo. Allora Gianni, che si dice? Comunque mi sono dimenticato di salutare, buonasera a tutti. E cosa si dice? Sempre le stesse cose, ragazzi. Mamma mia. Oh, yeah. Ieri ho provato a distrarmi con quella sceneggiata di... Ho visto un paio di giri Formula 1, ho già giambato subito perché mi stava venendo l'incazzo. Ah, guarda io. Tanto ormai, la Formula 1 è molto. Ah, guarda io. Non guardo manco partite, niente, niente. C'era un bel film invece, quella con Sabrina Ferilli, molto bello. Che tra l'altro è una storia vera. Capito? Amava quello. mi sono pericchiato. Questa mattina mi sono aperto alle 7. Uffa, non sono rientrato. Sempre sul tutto entrato. Ormai, la giornata è quella. Capito. E beh, poi alla fine, continuo, siete riusciti a trovare la quadratura del cerchio? Sì, sì, beh, lui si tiene il 4 e lo abbina a una radio, il 5 lo abbina all'altro, basta. Non ha altri movimenti da fare. Sono due microfoni eccezionali con due radio che vanno bene. Come baracchini e li tiene così. Bene, Meda. Non partire sul microfono, fai lo piacere. È in ballo, Disney, a Tampio, a Tempio. Stai usando quello lì? No. Devo cercare di posizionare adesso quel tassino del PTT che non mi ricordo come l'ha messo. Sai che pure al contrario, ora devo girare. Guarda che c'è l'incasso quel tassino del PTT. È quello che c'è sul lato, che spinge sul lato. Sì, il pulsante rimane all'interno attaccato alla... interruttore, no? E poi tanto il PTT va a premere con una parte che scorre un po' lunghetta, un po' di sensibile, va a toccare quel tassino rosso, là. E c'è, non puoi sbagliare, c'è il suo, c'è una sede, c'è. Sì, ma lo puoi mettere rovesciato, al contrario, destra e sinistra, adesso guarda un po' come la posizione, la forza vuole girare sotto sopra. Non lo puoi girare, fra, se no non ci arriva a spingere il pulsante interno. E infatti adesso pensavo che fosse sopra, adesso è una spingere, invece quando fa è sotto, quindi va messo sotto sopra. E poi c'è le slitte dove entrano le lamelle, ma quelle lo puoi mettere in quella serie di posizione. Adesso lo giro, dai, tranquillo. Ehi, va bene, va bene. Quindi il segnale portatile era basso, ok? Inizialmente non ti ho sentito, poi c'avevo un po' di QRM, poi si è abbassato il QRM e ti ho sentito. Segnale 2, però radio è bassa bassa. L'ho provato, l'ho acceso dentro casa. Quindi presumo che sia per quello. Ma ci uscivi fuori nel tuo giorno sicuramente. Ho facciato la finestra e ti sentivo meglio. Certo, certo. Bene, Meda. Cosa stavo dicendo? Ah, vabbè. Giusto per chiudere il discorso di prima. Diciamo che soprattutto i telecronisti te ne fanno passare la voglia, cazzo, ti fanno venire il mal di testa. Uno, il tipo, il cronista, il vero cronista sembra che ci abbia la patata in bocca. E poi ci sono qui, insomma, i due o tre che stanno sempre ai box, c'è una ragazza e un tipo, cazzo, due taccole, cazzo, non finisce mai di babità, danno un sacco di informazioni e poi alla fine non dicono niente. E come il calcio, cioè, non ho capito perché sono sempre in due, uno è il telecronista e l'altro è l'opinionista, ma stai zitto, fai fare la telecronaca della partita e poi fai l'opinionista alla fine della partita. Sempre mette le balle, stanno, fai i denti, magari c'è un'azione buona, lì fai i denti, fai concludere e poi parli, mamma mia, che... E gli opinionisti stanno lì a cincischiare, che uno li comprende un accidente, No, guarda, veramente è proprio mal di testa, proprio odiosi, cioè proprio sono insopportabili. Mi ricordo quando, insomma, l'ultima volta che l'ho vista alla RAI, cioè, almeno lì si respirava, il commento era, insomma, era tranquillo, c'era Ivan Cappelli, ex pilota, cioè, palla uno, una palla all'altra, insomma. Ma chi si, cioè, adesso Sky è allucinante, cioè, non ho... Non finiscono, non seccano mai, cioè proprio ti fanno venire il mal di testa, cioè uguale anche per il moto mondiale, ho guardato un paio di gare e ho abbassato il volume perché erano insopportabili. Poi questo vizio di chiamare i piloti, come si dice, chiamandoli con il cognome a metà. Infatti, adesso non mi ricordo chi era, Lucchinelli o Agostini, si è incazzato, cioè, l'ha detto al cronista ufficiale, cioè, i piloti chiamateli con i loro Agostini, non Ago, cioè, io mi chiamo Agostini, non Ago, sì, quello è il soprannome, ma dico in televisione, cioè, pronunciate il cognome per intero, e va ragione secondo me. Sì, ma infatti te lo sto dicendo già. A volte fanno veramente ridere, ma telecronisti e quant'altro. Purtroppo sono abituati a fare di tutto e di più. E finito il tempo di Sandro Ciotti e di Gosio, come si chiamava, Bisteccone. Certo, Bisteccone, certo. Lo so, bei tempi, bei tempi, cazzo. No, ma questi proprio ti passano, ti fanno bene mal di testa, cioè sono allucinanti, bla bla bla bla bla bla, poi alla fine sembra che abbiano il gobo lì, il monitor, il computer e iniziano a leggere statistiche, cioè, ma in fin dei conti poi a livello di cultura ne hanno ben poca questa gente qua. Quanto mai l'hai seguita la partita di Pierluigi Baldo? Non si può sentire. Hai visto il programma che fa Bonolici, che sta sempre tirando, che alla fine io cambio canale, no? Mi piace ciavolarli. Non si può seguire, perché completamente sta sempre gridando, proprio parla gridando. Luigi Baldo è la stessa cosa, lui fa la telecronaca a voci, gridando, alla fine a me mi si fracassano le balle e cambio canale, perché non si può sentire un telecronista in quelle condizioni. Sì, sì, sono veramente degli esaltati, proprio, sono veramente fastidiosi, cioè proprio non... sono proprio in un altro pianeta, non sono, cioè quella gente lì in radio non c'è passata, capito? Quindi tutta quella scuola radiofonica delle radiocronache, cioè questi qua non hanno, la gaffetta non l'hanno fatta, sono passati direttamente in televisione, cioè, e l'ascoltatore, cioè, è normale che si rompa le palle. Che... va bene? Schiaccia l'importante. 1, 2, 3. Troppo, lo sappiamo, non ce ne può fare. Schermato? Per forza lo schermi. Per forza lo si scherma con quello. Non ce n'è più alternato. Però è sempre barattolato come... Se no lo posso riempire di qualcosa all'interno, un po' di ovatta. È troppo vuota come modulazione. No, va bene adesso, va bene. Fa da cassa anche l'alluminio, capito? Va bene. Adesso un microfono normale. Come lo senti già? Vabbè, chissà di che anno è quella capsula, quindi cioè, può essere anche comprensibile. Chissà di che anno è, boh, non lo so, di che anno è fra quella capsula? Ma no, tu pensi che sia anni 70, ma non è chiara perché è la modulazione. Modulazione è perfetta, comprensibile, udibile, chiarissima, si capisce tutto quello che dici. Diciamo che non ha presenza, non è vuota, capito? Cioè la senti, non spicca a livello di tonalità, capito? Si capisce tutto, la radio è, la radio è perfetta, però non ha corposità. Adesso provo l'altro microfono, quello del Galaxy, vediamo se mi dai una radio migliore con l'altro. Va bene, mi fa, adesso non c'è più l'alternata, è bella chiara, Sai che cos'è? Che c'è un media acuti, quelli sono microfoni, quelli dinamici che del Pace 123 del Tokai, capito? Se ne dai a me quel microfono, sembra amplificato. Questo invece è quello del Galaxy, con questo ti sentite meglio? No, per me c'è uguale. E tu già, meglio questo o l'altro? Guarda, sono molto simili, molto molto molto simili. Questo diciamo non è stato mai smanettato, ho cambiato solo le connessioni e basta, non l'ho aperto all'interno. Quindi questo è... L'altro invece si vede che hanno questo mano. Vanno bene tutte e due. Quello là c'ha più acuti comunque, quello del Pace c'ha più acuti di questo. Capito e basta. Questo è un po' la tonalità e così. Va bene, adesso lo puoi usare anche quello là, dove lo devi mettere, anche il radio devi mettere. No, era quella del corredo, sì, quella che gli hanno adattato al volare, quindi pensavo che fosse da buttare, invece l'abbiamo recuperato, grazie a Claudio. Anzi, sapendo non ne avrei cambiato neanche questo del Galaxy, l'avrei lasciato così con la spagnola e basta, ma ormai è fatta la connessione. Va bene così, riprendi Gianni. Reia, ascolta, ma nella radio insomma a cui è collegato il microfono, cosa c'è il mic gain per caso? No, questo non c'è nulla, è un valvolare, c'ha i canali, molti tasti che li amano, non si legge più niente, uno penso che sia per centrare la frequenza, no? Destra, sinistra, poi c'è scritto power off e standby, poi c'è il PA, infatti poco fa mi ascoltavo col PA e sembra che l'originale del Pace sembra che spinga un po' di più, perché fischia un po' di più, innesca, sembra che spingano troppo. E poi c'è il dato meter o watt. Come stava dicendo Claudio, che insomma, cioè nel senso gli do ragione, fischia perché è più predisposto verso le altre frequenze rispetto all'altro, quindi tende a innescare prima, capito? Sì, quando lo uso in piatti lo sento che innesca prima, cioè mi devo allontanare un po' di più, è un po' più sensibile dalla capsula forse. Va bene, va bene, faccio che non hai alternata, va bene, è abbastanza comprensibile la modulazione. Ah, il problema era quello, era solo alternata, dai. Era antipatico mettere la mano sempre nello spinotto per eliminare questa causa di rumore. Però abbiamo risolto, dai. Avanti qua. Gaffa, gaffa. Come già facevamo, no? Quando c'è queste cose, basta giocare con la carta spagnola e vedi che ribascia un macchino. No, puoi usare tranquillamente, senza problemi. Prima c'era questo... capito? Adesso non c'è più. Adesso non c'è più. Dai, un attimo di tempo per me che metto a posto un po' di roba, là, saldatore e cose varie. Ok? Avanti già. Scusate, stavo parlando con... mi sono perso l'ultimo passaggio, mi rinfrescate la memoria. No, ho detto, faccio un po' di bianco e rimetto a posto un po' di attrezzatura, tester, saldatore e cose varie, dai, faccio un po' di pulizia. K, aspetta, l'ultima cosa, ma è un palmare o un microfono da tavolo? No, è un palmare, la marca è Pace, è di un vecchio Pace, deve essere, però è da palmo. Aspetta, questo che sto dando adesso è dell'originale del Galaxy, del Super Galaxy. K. Va bene, dai, pigia tutto. Io poco fa ho messo a posto il caricabatteria del telefono di casa, ma è la batteria che è esaurita, rimane in carica 10 minuti e dopo si chiude, quindi adesso bisogna recuperare la batteria del telefono del cellulare, e quello non è un cellulare comune, e chissà se magari su internet si trova. Non si è sentito nessuno qua? No, stavo chiamando a Ronaldo ma non mi ha risposto. Ho telefonato a Donnarumma e mi ha detto di scusare che purtroppo ci ha dovuto fare il gol lui, perché intanto il Milan non ne faceva. Quindi è partito e ha cercato di segnare, così è? No, ci ha fatto due più gol, ha rinviato e ha dato la palla a Müller e ha segnato subito, 33 secondi. Aspetta Ronaldo, ma come la giochi? Poi Ronaldo, mio Dio, a te che risponde al telefono. Mamma mia, con l'allenatore lì non si fa giocare domani, per carità. Ciao Gianni, Ronaldo domani non si va a giocare. Senti per te, se non ti fanno, non fanno entrare, non è la calle. Buonasera Giulio, ben sentito. Ciao Gianni. Non è possibile, ragazzi. Ma no, domani deve andare a casa a vedere la partita. Ma non lo fanno entrare. Restrizioni, lo fanno rimanere fuori. Non lo fanno entrare, dice non ti venire perché tu sei Ponte Scalogna al Cagliari, dunque non ti venire. E così mi dicono, ma te la scende la mamma, dice tu perché sei qua. Vai, torna indietro, vattene a casa. Oia. Ascolta Giulio, ma stai parlando più vicino al microfono, insomma, di quando lo fai, insomma, sempre. Cioè, nel senso, stasera sei più vicino al microfono, perché ti sento la radio più alta rispetto agli altri giorni. La radio più alta? Vuol dire che hai esagerato. Vediamo un po'. Vediamo, oia! Vabbè, vediamo un po' come sei stasera. Ma già è nei limiti, già è nei limiti, ma com'è? È troppo? No, vabbè, adesso Mi sono accorto che rispetto a tutte le altre volte sembra che ti sei avvicinato molto di più al microfono. Questa è la sensazione che mi hai dato. Sì, perché mi ha avvicinato il tavolino, mi ha avvicinato. Adesso non può controllare di nuovo, ma adesso non ero andato. Ma qua, quando poco fa troppava, o devo passare il macchinino? No, no, evidentemente magari eri più vicino e quindi la sentivo più rimbombante, capito? Solo quello, poi per il resto va tutto bene. Ah, si vede che oggi ho la voce amplificata. Forse sarà quella passeggiata che mi sono fatto. Di almeno 3 km o 4. Sarà per quello, dai. E adesso ho la voce amplificata. Bene, bene, al naturel. Cioè, se manca la base, cioè se la voce non è in forma, poi la catena si interrompe. Quindi oggi hai la voce in forma, dai. E allora, che si dice? Ah, buon Giulio, io telefonando a Donnarumma, ma ho detto guarda, mi devi scusare perché il gol l'ho fatto io, lo sono fatto io, intanto il Milan non segnava qui. Infatti ha fatto bene, ha dato una mano, ha dato, sai. Loro in centro non c'entreranno, per cui facciamo avere un po' di gloria anche la Sampdoria, così almeno vincono loro e non se ne parla più. E così è stato. E gli è andata bene, perché qua gli anni l'hanno assegnato. Ma davanti si va, va bene, ci sta, si può anche sbagliare, ma la devono finire portiere di rinviare corto, la devono finire perché oramai le leggi sono cambiate del calcio, un attaccante ti sta lì in aria, te la butta dentro al rinvio corto, tanti l'ho appigliato la Juventus, ma qui fa di Buffon, quindi, però dico, una squadra a quei livelli con un attacco micidiale, non sei riuscito a pareggiare la partita, non ho fatto nulla, lo Milan si è fatto un gol, l'Inter ha preso un gol, non è riuscita neanche a pareggiare, ma di che squadra stiamo parlando di due squadre di puffi. Stiamo parlando di squadre che quelle lì, basta pensare che ha più quanti punti ha dietro la Juve, mi sembra che abbiamo 30 punti o una cosa del genere, più o meno, non lo so, se non sono 30 poco ci vuole a 30, e così è l'Inter, lo stesso discorso. Napoli è la stessa cosa, quindi si buttino, una squadra che è stata formata per vincere il campionato, che si ritrova a 15 punti, a 9 giornate dalla conclusione del campionato, alla prima classifica, guarda, non è possibile, lasciamo perdere. E devono ringraziare anche a quel morto dell'allenatore che era Juve, perché se no avrebbe avuto minimo, avrebbe avuto 25 punti di vantaggio oggi, con la partita che ha preso e quei pareggi che ha fatto, perché la Juve quest'anno non vince tutte le partite, tutte indistintamente, ma siccome è un allenatore che fa schifo ai cani, non sa dare un gioco, non sa mettere in condizione gli attaccanti di andare a veste, è fortuna sua che ha i campioni e lui proprio per quando si guadagna, perché? Perché la Juve vince perché è campione, non certo perché è un allenatore bravo, per carità. Vabbè, avanti Gianni. Eia. Abbastanza infuocato oggi Giulio. Avanti Giulio. Ma per carità, non è possibile, va. Ma non lo sopporto più io quell'allenatore, speriamo che lo mandino via. Da quando ha conosciuto Ambra ha perso la testa completamente. Se l'aveva già poco prima testa, adesso che ha conosciuto Ambra l'ha persa tutto completamente la testa. Non ha più l'intelletto qua. Claudio, tu domani hai il coraggio di andare a casa a vedere la partita, non mandando, è stato un bittimo. Claudio è caduto da Sentolone della stazione. Sempre questo telefono, ma non fa dire una volta battuti il telefono. Avanti Gianni. No. Ciao Giulio, sono rientrato, Franco. No, Giulio, scusa, mi sono andato a prendere il toso a portarmelo qua, tutto il telefono. Ma già ti ho sentito la cavice. Avanti fra. Capo, stavo salutando Giulio che è entrato quando io ero in bianco. Dai, ciao Giulio, riprendi. Ciao, ciao Franco, ben ritratto, ben ascoltato. Stavo criticando la mia Juve, o meglio la Juve di Agnelli, perché non è mia, ma diciamo che è un pezzettino mio anche, invece considerato che faccio il tifo da quando sono nato. Ma non sono contento, non sono contento dell'allenatore, per niente. Ma io non posso parlare, quindi no comment. Avanti già. Tu sei interista nudo. No comment, mi sono pure dormito, le mani. Non mi avviene io l'intervista. Non ne parla più nemmeno lui. Adesso che fa schifo. Non solo la squadra, ma tutta la squadra e tutta la società. Fa schifo. E adesso tifosissimo del Inter, mio genero. Ma non ho visto ieri sera il secondo tempo, ho visto parte del primo, poi ripeto ero stanco e mi sono anche addormentato quando la partita. E quindi non so come abbia giocato, se abbia provato a pareggiare, ma non lo so. Sì, in poca gli ha fatto tanti, mi sembra che ha fatto 13 tiri contro 5 o 6 della squadra avversaria, per cui, però non l'ha centrata, perché non c'era la porta movibile, la prossima volta richiedo una porta che si muove, dove va il pallone in modo che sia calamitata e in modo che sia centrata, per carità, una squadra proprio non è possibile. Non è questione che ci manca il cardio, è la squadra che non va, anzi è la società che non va, e questo mi dispiace perché così il campionato non c'è gusto a vincere il campionato, così non c'è gusto, troppa differenza a te. Caro, ma poi il Cardi l'ha fatto entrare? Ma per carità, ma non lo vuole vedere più, il Spalletti non lo vuole più vedere. Nemmeno se va con la moglie in bikini. Forse è meglio che giochi la moglie, dai. Almeno distrai qualche giocatore e riescono a fare qualche gol. Riprendi, classe. No, niente più tardi per me, no. C'è qualcosa sotto e ti posso garantire al 100% che lui lasciava di avere a che fare con un pupazzo. Mica per Marotta, mi ha detto il generale, hai capito? Non vi dimenticate che Marotta ha lasciato in panchina Higuain, ha messo fuori a Bonucci, capito? Poi c'è stato il Pacere, quindi Marotta è tosto, c'è qualcosa sotto che noi non sappiamo, sicuramente, perché Icardi non è vero che è fortunato, si sta allenando, ma non gioca, hai capito? Si sta allenando con la squadra, perché l'ha detto ieri più Luigi Baldo a Tic Tac, hanno fatto vedere anche l'allenamento. E Spalletti ha dichiarato proprio ieri sera che il giocatore non gioca, è 45 giorni fuori e continua a rimanere fuori, capito? Ha dichiarato blu più eddo, quindi c'è qualcosa sotto che noi non sappiamo. Vabbè, comunque, ha tentato di segnare, ma non ce n'è squadra, non ce n'è, va bene che mancava anche Martinez, il segreto si è sbagliato tanti di sigolo, ha tentato, hanno tirato, hanno fatto, però non è una squadra che può rimanere al terzo posto lì, assolutamente, vede l'Atalanta, vede il Napoli, Giulio, attento, il Napoli ha vinto a Roma, hai capito? Le quattro perette vogliono fare la Roma, quindi Napoli continua a piacermi, continua a dire che è una bella squadra e che purtroppo ha trovato e trova tutti gli anni la Juve che è più forte, perché se no il Napoli secondo posto lo merita la grande, lo merita la grande. Avanti Gianni. Ehi, mi diverto ad ascoltarvi facendo le, come si dice, le disamine, come diceva qualcuno, dando pagelle e quant'altro. Io già sono fuori dal mondo e quindi in questi contesti mi sto zitto. No, per carità, quando si parla di sport non è che si parla solo di calcio, si parla di sport in generale. Io sono juventino, anche abbastanza fanatico, però sono sportivo. Se la mia Juve, la mia squadra, che è la Juventus, gioca male, io la critico, come fa Giulio, la stessa cosa. Però vedo anche le altre squadre che stanno lottando per salire, per andare in Champions, perché c'è l'Atalanta che è fortissimo, c'è la Sampdoria che c'ha un attaccante di 36 anni, pur segna. Ma è mai possibile che una squadra come il Milan e come l'Inter, che hanno attaccanti giovani, Dunia, Volta, cioè il terzo in casa, stai giocando in casa, non puoi perdere in casa una partita così. Cioè, un tiro ha fatto la Lazio, un gol, e tu in 90 minuti non riesci a segnare, ma stiamo scherzando, è una vergogna. La vergogna perché sono squadre italiane e quindi mi dà fastidio che vadano a giocare in quella maniera. Non c'è cuore, non c'è gioco, non c'è niente, non c'è spogliatoio, non c'è presidenza, non c'è nulla, capito? Nelle squadre milanesi non c'è niente, da me. Ha venduto i cinesi, ecco, allora magnetevi lo cian ciao, come ti diciamo. Oh, tutte queste chiappe che nascono sempre questa società vergognosamente, tutto in maniera vergognosa, cazzo. Ma quando mai in una società come l'Inter, in una società di secolare, ragazzi, da come l'Inter devono essere sempre tutte queste difficili, queste polemiche, non è possibile, guarda, non è possibile in una maniera più assoluta, veramente, in un certo senso sono contentissimo che si trova sempre da anni in quella posizione, però mi dispiace che la Juve non possa avere una contendente da poter proprio vincere proprio con soddisfazione, perché la squadra avversaria è forte, invece no, è una vergogna, ragazzi, non può andare tutti gli anni a roba di 5-6 anni, 7 anni, con 20 punti indietro, 25-30 punti indietro dalla prima, è una vergogna veramente, guarda, non è possibile, cosa volete dire? Avanti Gianni! Sì! Meglio non, come si dice, non prendersela troppo per certe cose, poi già lo sappiamo come poi alla fine vanno a finire, quindi la Gemuri va, come si dice, sì, poi al limite ci si scalda un attimino, però poi già passa. Andà bene, avanti Fra. Vai che dà fastidio poi, e poi alla fine cadi come una pera marcia, quando vai in Europa da buoni vari, come tenuta, che lì alla fine rappresentiamo l'Italia, capito? Non solo la tua squadra, Milan o Inter che sia. Però anche a me piace il Napoli come gioca, sì, può anche perdere, però in campo dall'anima. Io dico, uno deve giocare a calcio, deve, non dico sputare sangue, ma quasi, così è classe. È così, noi parliamo con Giulio che è abbastanza preparato in materia, noi parliamo di queste cose, cioè il campo deve dare l'anima, devi cercare di dare qualcosa, e lì non c'è niente, il Napoli c'è un gioco favoloso, a me piace molto, io l'ho vista la partita, ci ha fatto un gol Milik, ci ha allucinato, hai visto, si è girato, tattano, via, cioè il Napoli gioca, manca Insigne che il numero uno di quella squadra, eppure Ancelotti riesce a mettere quelle persone giuste che giocano, cioè 4 gol ha fatto la Roma, in casa della Roma, non ha toccato una palla, la dice Gekko un cadavere, la domanda che voglio farti io Giulio, voglio sapere che squadra gioca con Rugagliari, capito, perché sembra che ci sia anche Matteo che non gioca, voglio sapere chi gioca, se gioca Kane in attacco e i due guardialine, perché non ha compreso che gioca, Spinazzola non gioca, non so che squadra giochi contro il Cagliari. Che ne ha preso due ragazze dalla primavera per completare l'organico, ma sarebbe molto giusto, forse già rientra Chedira, forse, ma perché Chedira è un mese che non sta giocando, che condizioni fisiche può avere, o meglio, ma le condizioni fisiche sono buone, ma che condizioni atletiche può possedere in questo momento? Assolutamente niente, dai, non è sicuramente in grado di giocare da Juve, assolutamente. Io non riesco a capire solo una cosa, ragazzi. Tutti gli anni, sempre 1-0, 2-1, 1-1, 2-1, 1-0. Ma quando mai? Cazzo, tutte squadre, vero, Napoli gioca, sì, a 15 punti indietro, perché giustamente ha perso dei punti lungo il campionato. Però quando gioca 4-0, 3-0, 3-1, insomma, le fatte sempre più di uno, e mette la Juve, un gol del figlio, e questo deficiente. generatore, calma, siamo calmi, andiamo piano, andiamo calmi, si che passa il vento indietro così, da Bonu Ciacchellini, Ciacchellini, Ciacchellini, a pianici, da pianici, a Cesni, cioè in porta, ma quando vai? Ma arrivare ci fanno il verticale e hai un super campione, hai un attacco, capita, che se non gli dai palloni, quello non potrà mai segnare. Non è possibile, ragazzi. Hanno rovinato a Dybala, che gli fa non fa giocare a centrocampo, anche che fargli fare la punta. Non lo so io, ragazzi. È una vergogna, è una vergogna. E la colpa la do anche a Agnelli, che ancora non ha mandato via calci per sedere ad Albini. Figurati, fai il flacco. Capo, dispiace anche a me perché Dybala era una bella promessa, è un po' magari Cristiano Ronaldo l'ha un po' oscurato, così è classe. No, no, non è quello, perché gioca Dybala. Dybala è un grande giocatore, che ha ragione Giulio, l'ha rovinato Allegri. Dybala è una punta deve giocare, capito? Perché che fai Ronaldo, Mandzukic e Dybala, ok, o che fai il contrario, sempre avanti deve stare lui, deve stare leggermente dietro a Ronaldo o addirittura avanti anche a Ronaldo per poter dare le palle, invece no, lo va a giocare a centrocampo. Dybala sta giocando appena più avanti di Pjanic, ma stiamo scherzando, è una goccia allucinante. No, io voglio sapere, ci picchia forte, Italia ci picchia forte, ma forte però me, assolutamente, Italia ci picchia forte, e vedrai che domani a me, non lo so, io ma non sbagliare già forse, mi busco la sciarpetta da Juventus, col mio berrettino, però faccio pure un giambo nello zainetto, faccio un berrettino di Lungaglia e la sciarpetta di Lungaglia, ci vengo con il goccio, non andrei bene. Ciao, vuoi subito dattica, uscì non mi saluta nessuno. Ciao, mi va a retto subito. Ah, ma sto giù, Giulio. Ehi, sta al telefono, va. No, sono avviso, le mancate la luce, l'ho chiamato la moglie. Sì, fra, e io domani andiamo. Un invito che ho avuto, andiamo. Andiamo da domani, diciamo, da metà mattinata. Prima svegliare due cosettine, poi andiamo, che siamo a pranzo da miei ex colleghi e poi andiamo, capito? Però ti posso dire che quando mi baglia io mi boccio due sciarpe, una della Juve e una della Lungaglia, due va a retta, una della Lungaglia e una della Juve. Ah già, c'è chi piglia un golpe. Prevenire è meglio che curare. Il kit, come si chiama, come lo possiamo chiamare, il kit, non mi viene il nome esatto, comunque, chiamiamo il kit da partita ideale, dai. Oh, porca miseria, c'è un'offerta fra la vittoria, il 10, Ajax, Juventus, e invece non c'erano più biglietti, biglietti aerei, 32 euro andata e ritorno, ok? Peccato, pazienza, dai, bisogna essere visti, computer sempre a parata di mano, appena vedi l'offerta devi beccarla al volo, se no non ce la fai, ma invece mi stai dicendo, domani, perché domani gioca il Cagliari? Allora domani alle 9 la partita, domani alle 9, capite? Alle 21, e a Torrabo c'erano i due delle manzane. E perché questo c'è rimasto lì così strana? E cosa ne so? Io è perché mio genero ha fatto tutto, con mia figlia eccetera, quindi mi hanno coinvolto, però se io pensavo giocassi alle 3, capito? Però entro settimana non giocherò mai alle 3, solo la domenica, il sabato alle 12.30, e quindi Hai dormito a Cagliari? No, rientriamo, non ho dormito a Cagliari, ma c'è uscito. No, no, rientriamo. Andiamo con la macchina di Mario Rino. C'è una bella macchina. Una bella macchina, un BMW Station Wagon. Un 330, quindi una macchina sicura, una macchina, no, con la mia non ci va, mi metto a guidare di notte, due giovani, guida lui, rientriamo perché poi l'aria è, mi pare che entri a luna al lavoro, capito? Quindi insomma anche se siamo alle due a casa non c'è problema, tanto tutti i giorni stiamo per il carro, una notte e mezza, luna, le due. Capo, una bella pedalata però, ma vabbè. Non è che non puoi correre, è che è tutto pieno di auto velox, che miseria. Bisogna stare attenti, non è più come prima, là. Avanti già. Devono fare cassa. Serve tutto solo per fare, scusate, cassa, non per altro. E quindi, sì, sicuramente sulla 131 sarà disseminata di controlli. Saranno aumentati sicuramente i controlli, poi chiaramente anche in vista di eventi così i controlli aumenteranno sicuramente, e quindi sì, bisogna prestare attenzione alla pellaccia prima e poi e poi posti di blocco. E alla busciacca la bisogna trattare, questi sono colpi la centinaia di euro, maledetti, sono migliaia, secondo quanto corri. Però ieri l'ho visto, ieri stavano salendo verso Monosa e loro erano sulla corsia opposta, quindi lato verso Sassari, e con quella macchinetta ormai praticamente l'attaccano, accoppano davanti o sopra la capota, è magnetica, e ti bicicheggia anche a oltre un chilometro di distanza. Avanti, cla. Però io non sono entrato giù, via giù. Sì, signor telefono, sai che sta. Ho ricevuto un messaggio, mi stavano dicendo che ho fatto la carità, mi fai ragione lì, mi sono dicendo di Allegri, vabbè, non faccio il nome, ma comunque, mi hanno fatto un messaggio che mi hanno sentito, è che questo deve essere Juventino, e allora anche lui, ma ha ragione, qua, che ha una ragione, qua, a prescindere da tutto il contesto, sportivo e calcistico, è così, la realtà è quella. Il presidente deve avere anche la consapevolezza che l'allenatore oramai è andato, cioè non vai Bini avvia, ma va via, giugno va via, fine campionato va via, lei che già ho letto, da tutte le parti lo leggo sempre, visto al computer sempre qualcosa di Sky, ma anche su Sky Sport lo dicono spesso quando ci sono delle, quando c'è quel programma di calcio, insomma, statistiche, eccetera, dove hanno tutto in partenza, si sa. E la prossima fece Burranieri, mi cosa pensi, la Roma è stata in Chivi a girarsi di bibilicri. Hanno mandato via quel poveraccio di Francesco e si è fatto il matto per tenere la Roma a quei livelli, solo a tirare Bizzendi perché la squadra non sta girando, lo mandi via. E grandi a pigliare Ranieri. Avrei, insomma, potuto capire fosse arrivato Conte, avrei capito fosse arrivato un altro allenatore da Toledo, che Ranieri è chi meglio di Francesco, ma non Tavì, stanno diventando pazzi, lascia perdere, il calcio ormai è tutta una pazzia, è tutta una pazzia. Noi fra molto, proprio perché io domani mattina devo fare dei documenti urgenti a mia moglie all'INAIL, a Vanna, no? Sta portando la pratica, la buona pratica, e qui devo andare all'INAIL, ma ci vado presto, appena mi libero, mi spiego altre due commissioni e poi non so se partiamo all'ora di pranzo o se prendiamo e poi partiamo, non lo so, perché Ilaria ha chiesto appunto un giorno di permesso, non lo so, tanti alle 9, quindi possiamo tranquillamente, le giornate sono belle, possiamo tranquillamente, sono anche lunghe, possiamo tranquillamente partire dopo quando, però non lo so, non ti so dire niente. E poi rientriamo, perché per effetto mia figlia lavora, entra a luna a lavoro, quindi anche rientrando a luna e mezza alle 2 di notte non è un problema. Si alza un po' più tardi e via. Vabbè, ma sarà una bella partita, Giulio, te lo sto dicendo, perché il Cagliari è uno squadrone, è diventato uno squadrone. Il Grande li ha già fermato, ha fermato l'Inter, ha fermato la Lega Pesce a Cagliari Bustata, non mi ricordo. Sarà una bella partita sicuramente. Avanti Gianni. Freya. Aspetta. Volevo riprendere il coso della a Franco, la storia della strumentazione. Ma quindi quello che non c'entra niente col calcio, apro una parentesi. Quindi la strumentazione che montano con le pentose sulla cappotta, cos'è? Il telelaser? O è, come si dice? Non mi viene il nome, cazzo, allora. Vabbè, già mi hai capito. Diciamo il vecchio autovelox. Sì, un telelaser già. Ah, perché dopo tutte le varie contestazioni che sono state fatte, insomma, riguardo alla storia del telelaser, perché insomma ci sono stati molti ricorsi riguardo alla come si dice, alla veridicità del telelaser, che insomma l'apparecchio funziona, però se usato in determinate condizioni, perché sennò praticamente il margine di errore saliva, quindi adesso si sono attrezzati e l'hanno montato sulla macchina. Però prima molta gente, io mi ricordo, perché tempi or sono praticamente mi era stato fatto un telelaser dopo la curva di San Giovanni e il tipo ce l'aveva in mano, aveva la pistola in mano. Non lo sapevo, ero praticamente all'oscuro di tutta una serie di cose, ho pagato la multa, però potevo fare il ricorso perché quell'apparecchio doveva stare sul treppiede, capito? Sì, sì, mi ricordo anch'io questa. No, questa qua è proprio, la macchina è ferma, quindi è come il vecchio autovelox. Oltre però ti controlla anche la targa, quindi sanno vita i miracoli, se la macchina è bollata, c'è in regola, ci ha fatto la revisione, loro sanno tutto in un paio di secondi. Anche i bici urbani ce l'hanno, mi ci mettono via Milano, fra le telelaser lo stesso, non c'è più cavalletto, non c'è più cavalletto, c'è il furgoncino, c'è quella macchina grande, c'è un furgone, e c'è il telelaser che esce praticamente dal cofano di dietro, è all'interno, piazzato su un basamento, è puntato sulla carreggiata, capito? Può salire o scendere, dipende dove si mettono. Adesso non si stanno mettendo più perché stanno facendo lavoro in via Milano, stanno facendo la pista ciclabile, quindi c'è un sacco di movimento, perciò non c'è posto per, non c'è spazio, poi rallentano tutte le macchine perché sono i cartelli, le carreggiate sono più strette, capito? E quindi non ha senso. Però è così, telelaser, non c'è più il cavalletto, quello che montavano prima, già, capito? Proprio perché non era idoneo, ci sono stati un sacco di ricorsi eccetera. E mi ha mangiato un chissà me, un belage, la basanta, con l'Oriasei, vamos, è da sempre belli bisanti. A 160 mi fai passare a 180 la basanta. Arrivi da casa, ma che bisanta, 650 euro, pagabile dentro 30 giorni, se no diventava 1300 euro. Non si accontesti, si vedi alla Ghiriga, si vedi a Edo, bello, incravattato, tutto in pieno nel biliardo, capito, avanti, in pieno, già sbagliassi, in pieno, voglio chiedere da sole, il numero della targa, il marchio della macchina, non si accontesti, vai Giulio. Ok, allora una volta scendendo a Porta Torre, lì all'incrocio che porta lì in via delle Vigne, anziché andare dritto per Porta Torre, sono passato a 54 km orari, c'era l'autovelox, lo sai che mi hanno mandato una fotografia a casa con la multa? Io non ne ho mai parlato, guarda che sto parlando più di 20 anni fa questa storia, forse anche 25, non ho mai pagato, non mi hanno mai cercato, mai. Si vede che se ne sono resi conto che il limite di velocità si può superare fino a 5 km, invece erano 54 km, allora, il che significa che avevo superato di 4 km, avevo superato, pentiti qua, e non ho mai pagato con la multa. Allora ormai è passata in prescrizione 50 volte, sentite, no? Non lo so con quale coraggio questo ha mandato la, questo comune, il Porto Torre mi ha mandato la multa. Quando non ero denunciabile e io non ero passibile di multa, secondo la legge. No, ma lì c'è stato un errore. È tutto il limite di velocità 50 lì, quindi 54 non è possibile, c'è stato un errore, ecco perché non ti hanno più cercato, sono accorti che c'è stato l'errore. Addirittura mi sembra che sia 58-59, nel senso che puoi arrivare sino a un margine di superare l'8%, diciamo, quindi non è fattibile. No, ma la basata nel tratto dove ci sono i due rifornitori, lì mi sembra che il limite di velocità sia 80, fate un buon. Proprio c'è il cartello da lontano, perché io ce l'avevo spesso a Cagliari, c'è il cartello che indica 80, proprio nell'arco dei 100 metri del passaggio dei due rifornitori, capito? Quindi io ti ho passato a 160, anche io mi fate un buon. In più unisci a che unisci e vedeci, ma tu non faccio, la cammina a bocca in macchina, per carità, va bene, avanti già. A me anni fa mi avevano beccato in moto dopo il curvone di San Giovanni, cioè da Sassari verso Porto Torres. Stavo andando praticamente ad uno spuntino di un amico che si era appena laureato. Cioè ho fatto la curva veramente con la mano sinistra in quinto, la mano destra sull'acceleratore, proprio ero bassi gendi, 60-70. Cioè credetemi, cioè sarò stato in quinta, cioè proprio perché sapevo che bene o male si mettevamo lì. Come praticamente ho iniziato a fare il rettilineo, cazzo, ho visto questa cosa fluorescente dal nulla. Praticamente abbiamo ammacciato una macchina sotto quegli alberi di fichi o cos'era, praticamente che ci sono sulla destra, all'uscita di San Giovanni. Sono rimasto totalmente di merda, cioè, praticamente diciamo che non ero solo in strada, c'erano anche altri mezzi con me e sicuramente questi hanno sbagliato, perché infatti mi sono messo a, insomma, non dico a discutere, a chiacchierare, e Morale della Favola mi ricordo che avevano messo, il tipo mi aveva praticamente girato la pistola e mi aveva fatto vedere 121,7. Io vabbè, sono stato sempre, insomma, molto sorpreso da questa cosa qua, e niente, insomma, mi reggio dopo da bagare. Poi non ti dico che praticamente dopo un certo tanto di chilometri c'è anche il verbale sul coso della patente, e praticamente loro mi hanno staccato un verbale. Quando sono andato a pagare via Genova, allora la multa, il tipo mi stava contestando dicendo che mancava il verbale sul coso della patente, tric e ballacche, insomma, 600.000 lire grandi mi sono pagato, 600.000 lire grandi. Oh, claro, secondo me la pistola l'ha puntata a qualche aereo che stava passando lì in zona. No, ma quella lì era, si poteva contestare già. Si poteva contestare. No, io scendo a Porto e non ne ho mai preso. La verità, autovelox non mi hanno mai fatto. Però i miei colleghi hanno andato a Cagliari, eccetera, mi hanno preso un bel niente. E in quel contesto lì l'azienda li ha contestati, poi chiaramente ognuno era responsabile del proprio mezzo quando stai guidando, quindi però non gli hanno tolto lo stipendio, non scatto, evidentemente hanno avuto ragione, capito? Però bisogna stare attenti, se i limiti di velocità ci sono, bisogna rispettarli. Avete visto quello dei punti? Cioè, ma come si fa? Uno ha 89 anni, io ho il massimo rispetto per le persone anziane, se hai la patente giustamente vuol dire che sei ancora idoneo a guidare, però ho fatto una manovra guardatissima, perché anziché entrare a mettersi per svoltare lì a San Giorgio, ha tagliato la strada, è uscito lì dal corso dei ricambi, come si chiama, ha tagliato la strada. Cioè non si fanno queste cose. L'è morto un ragazzo, un uomo di 46 anni. Cioè, ma come si fa? Cioè, sono cose assurde. Bisogna stare molto attenti. Limiti di velocità, bisogna rispettarli e essere consapevoli che quando c'è un limite di velocità vuol dire che c'è un passaggio pedonale, c'è un centro abitato, ci sono dei rischi e quindi bisogna rispettarli. Se no, se tutti andiamo a milli, allora ravvini, ammazziamo Gheringhani. Vai giù. È inutile, non prendi i vuoti zeri, una traccia di valori, è inutile stare lì a spingere, ma cosa c'è da spingere? Anche quando vai in un posto, se arrivi 2 minuti prima, 5 minuti prima, mi sai dire che cosa ha vinto una persona? Nulla, ha solo rischiato per lui e per gli altri. Non è possibile, guarda, che si possa viaggiare in quel modo. Bisogna rispettare le regole, la velocità bisogna rilassare, chissà perché. Allora la macchina l'ha sempre lasciata solo in franchigia, chissà perché, come in questi giorni passati, da Bricome oppure dal centromercato, non lo so. E me l'ho già riparato, l'ho giubata io, ma te. Mi sei considerata che non mi mancano le capacità. Comunque era una bella macchiatura avevo nel parafango dietro. In questi giorni mi sono messo e non lo sono fatto. La media è perfetta, sai cosa vuol dire perfetta qua? Tu non ci crederai, ma è perfetta, come se l'avesse fatta un carrozziere di professione. Ascolta, cosa hai comprato? La bomboletta sua è trasparente anche. La bomboletta? Ah, il compressore, perché io non ce l'ho il compressore, certo. Guarda che io, dove lavoravo io, cioè a fianco alla mia famiglia mia, c'era un carrozziere, tanti anni fa, si chiama Mario Peranzoni, che poi si è trasferito a Liguri, e lui aveva il verniciatore e poi il proprietario della carrozzeria. Lui faceva la carrozzeria e con l'altro verniciava. Quando chiamava Franco, perché era un tipo un po' malaticcio, lui preparava la macchina, entrava da me, Giulio, me lo fai la cortesia, ma erano tutti la macchina, che l'avevo consegnata, la macchina la stanno sollecitando, va bene, vengo, c'era tutto. Scusavo io, perché tu non sapevo usare la pistola a tutto, non la sapevo usare. Per dirti no, perché non te me la vegliare. Ma sono giù, mi sono dimenticato, ora io. Lo so, mi sono dimenticato che grazie a Dio ne hai verniciato di tutto, quindi la pistola sì, adesso ero fuori rotta, e beh, se non sei tratta la dura vettura e frustrata, io la devo trattare. Io non li ho mai adoperato, io qualche ritocco, qualche cosa, vado alla Maximeia e mi faccio fare, perché adesso fanno le bombolette anche, capito? Per colore della macchina, no? La fanno proprio, la Maximeia le fa proprio trasparente, sempre con la bomboletta, prima spruzzi e poi le dai trasparente. Però tu già hai il compressore con la pistola a spruzzo e tutto. Vabbè, ero fuori rotta, dai, avanti fra. Ma sa cuba è la pistola, sì. Però anche io qualcosa, tipo i cerchi me li ho fatti con le bombolette e ti dico che sono usciti quasi perfetti, cioè da lontano non si vede nulla, neanche da vicino secondo me. Adesso non so quanto durino, però ce l'ho già un anno e vanno bene, i grigi metallizzati e poi trasparente sopra, va bene. Stavo ritornando alle multe, ormai mi sto prendendo l'abitudine di usare il cruise control, imposto la velocità, arriva, quant'è il limite? 90, sembra un 95, non di più, e la macchina più di così non va, a me non rischio, ormai ci vuole calma e sangue freddo, avanti Gianni. Sì, poi, vabbè, poi fondamentalmente alla base di tutto, chiaramente bisogna essere responsabili, soprattutto stare vigili, presenti quando si è in strada, perché nonostante uno possa avere tutte le patenti, possa avere l'assicurazione, le cose succedono in un batter d'occhio, cioè quindi stiamo parlando di fatalità, cioè certe cose succedono perché devono succedere. Poi chiaramente un altro conto è di non andarsene a cercare, è chiaro questo, no? È come il costone di roccia che ti cade che ti cadi addosso, cazzo, mentre stai passando in macchina. Di colpe non ce ne sono, è una fatalità, è successo, è ciccia. Un altro discorso è quando ci sono kamikaze in giro che escono, cazzo, imbriachi ciechi a seminare il panico, cercando, cioè, non essendo consapevoli che possono ammazzare se stessi e gli altri, capito? Quello è un altro discorso. Però poi il resto, quelle sono fatalità. Cioè, io in moto, praticamente l'unica volta che ho avuto un incidente è perché mi sono venuti addosso. Una signora con un Opel Agila ha bruciato lo stop vicino al Bar Carlotta, a Predanieta, non so se ve lo ricordate, vicino dove era vicino al White and Green, cioè quella strada la facevo ogni mattina andavo a fare colazione lì al Bar Carlotta e quindi sapevo, adesso ci hanno fatto praticamente uno spazzitraffico, ma prima la strada era dritta, cioè la facevo tutti i giorni, ho sempre prestato attenzione, poi figurati da motociclista ti guardi hai praticamente la vista a 360 gradi, cioè ho guardato, l'incrocio era libero come lo facevo tutti i giorni, a un certo punto mi sono trovato in terra con la moto che è finita sotto un Opel Zaffira di fronte a Bar Carlotta e io un rudolone mezzo carriera, ho sbattuto la testa, meno male avevo il casco giustamente, contro un paraurti di un tipo che c'era parcheggiata lì, cioè figurati, capito? Quindi quando sono arrivati i vigili urbani, la signora ha detto sì è colpa mia, è colpa mia. Poi dopo un po', praticamente, forse magari passato lo spavento, ha iniziato a dire che era che io sono passato velocissimo, grazie a quell'incrocio è a 20 metri dal bar, vorrei capire quanto veloce posso passare in un incrocio del genere. E infatti poi alla fine, mentre mi stavano caricando in ambulanza, è venuto un ragazzo che lavorava per le messaggerie, che era proprio dietro la signora che aveva il turbo d'eri, ha detto: qua amico mio, tu stai tranquillo e sereno perché sei una botte di ferro, la tipa ha bruciato lo stop e quindi, capito, per dirti, cioè stava andando pianissimo, per dire, però molta gente, sai, è convinta, non ha i tempi di reazione, poi se parliamo soprattutto di gente di una certa età, cioè vede, si gira una parte, si gira dall'altra, ma in quell'asso di tempo così veloce è tutto, insomma, qualsiasi mezzo magari sia una percezione completamente sbagliata della cosa, capito? Leggiti giù l'articolo che c'è su internet di quell'uomo, cioè omicidio stradale, è nato a 89 anni, hai capito? Ma questo è uscito lì da centro casa, dall'incrocio lì, no? Tu devi fare una cinquantina di metri, ti devi mettere nella mezzeria, dare la precedenza a chi scende da Sassari e poi svoltare a San Giorgio. Ok, si può girare. E tu l'ho già fatto. È uscito da centro casa. Non è che ha esitato a mettersi nella mezzeria, no? Ha tagliato la strada e se n'è entrata a San Giorgio, dove rivendichi da moto, tanto è vero che l'ha preso sul fianco destro, che ha invaso completamente la corsia. Vero che la moto sicuramente stava camminando, però io mi trovo un ostacolo davanti, non riesco a frenare, ma ammazzo. Purtroppo è così. Omicidio stradale, no? A un uomo di 89 anni, Giulio. Incredibile, ragazzi, ma come si fa? Come si fa? Non riesco a capire. Purtroppo, perché era una cosa che ti dica qua. Adesso quest'uomo non si è accorto che stava arrivando un motociclista. Strano veramente, tanto lì 49 anni, poraccio e muro, 40 anni meno di questa persona che ha causato un incidente. Però io, grande, quando ne succedono, purtroppo è così. E sul passaggio pedonale quanto ne sono stati investiti quest'anno? Quest'anno, o l'anno precedente, là. Mi sembra che ne sono morti 19 a Sassari. E ci sono stati un roba di 80 investimenti a Sassari, per le squadre di Sassari, per i pedoni. È una cosa incredibile, ragazzi. Spaventoso veramente, sta diventando, ma è veramente spaventoso. Ecco perché dico bisogna cambiare sempre il piano, non ce ne vuole fretta. Poi naturalmente una vista può capitare, può succedere, questo si ha dei casi. Però se vai piano, almeno su 10 volte o 8 volte evi, questo è sicuro. Vabbè, dai, avanti fa. E anche io lo penso così. Perché sicuramente daranno qualche concorso di colpa anche alla moto, perché se stava camminando, che lì c'è, se non sbaglio c'è 50, se uno va a 50, sì, ti puoi fare anche male, ti sfasci la moto, però la vita non, mai, difficilmente ce la rimetti. Ormai poi devi stare attento sia a te che anche agli altri. Quando io vedo un incrocio, qualcuno che sta uscendo, a volte non dico mi fermo, ma quasi, lo guardo fino alla fine, perché è un attimo, lui è distratto, mi taglia la strada e mi prende in pieno. Ci vogliono quattro occhi. Avanti Gianni. Ehi, guarda, non sto a raccontarvi tutte le volte che tutte le strizze, tutti gli spaventi che ho preso in moto, gente che mi tagliava la strada, gente che mi ha aperto lo sportello. A Predanieda, praticamente, andando verso Predanieda Sud, il curvone, quel curvone grande dove ci sono le uscite per Alghero e Cagliari, cazzo, una volta me ne è uscito un articolato praticamente occupato da parte a parte della strada. Cioè, adesso se mi vedi arrivare, cazzo, lasciami passare e poi parti. No, Chicchio praticamente, cioè, ha visto che stavo arrivando, ha preso, è partito e ha occupato tutta la carreggiata, compreso? Cioè, ma te ne posso elencare tantissimi. Verso il mercato del frutticolo, praticamente una volta io andando verso, tra virgolette, Bricome, e quest'Audi nera davanti alla macchina, a un certo punto questo si vede la macchina zizzagare, cazzo, mi si è fermata a 50 centimetri dalla... ho inchiodato, mi si è fermata a 50 centimetri la macchina dalla ruota anteriore. Cioè, questo qua ha praticamente aperto il cassettino della macchina e stava controllando la roba dentro il cassettino mentre stava guidando. Cioè, ha già mai fermo un frontale? Cioè, per dirti, no? Cioè, te ne posso raccontare miliardi di cose del genere. Cioè, per cui, voglio dire, con tutta l'attenzione che uno ci presta mentre guida, deve stare molto, molto attento, soprattutto agli altri, capito? La macchina è come un'arma, secondo me, riprendi qua. Attenzione, ci vuole, attenzione, ma quello sicuramente era fermo al semaforo di punti. Scattato il verde, sai, la moto non era giocata, era un 650, un Suzuki, ho aperto, perché succede così, non c'è niente da fare. Ha tirato, è chiaro che secondo la velocità che aveva non è riuscito a fermarsi, con tutta la distrazione che ci possa essere, però è la velocità che comanda, perché giustamente io la moto la guido e se vai piano la moto la fermi. Mi è successo anche a me di avere uno stacco all'ultimo minuto, però a 50 all'ora freni, la moto si ferma, ma se sei in apertura con le marce prima, seconda e terza, quelle moto arrivano già a 140 all'ora e quindi ti fermi, dove ti fermi? Vabbè, non, purtroppo è andata così. Purtroppo è andata così. Sì, è un ragazzo che abita poco solo, se mio fratello l'ha visto, la conoscevo, anche abbastanza tranquillo, cioè non era uno di quelli che correva, eccetera. Tanti anni anche che guida la moto, però quando ti trovi lo stacco da davanti, ma mi fa ridere il fatto che un uomo di 89 anni, se stava guidando, vuol dire non aveva neanche una macchina così vecchia, aveva una Y di quella, insomma, mi pare che era del 2009-2010, quindi perciò non... E poi se stava guidando vuol dire che era idoneo a guidare a prescindere dall'età, però non hai più i tempi di reazione come dice Gianni, non hai più quella visibilità e poi fai delle stroccate come hai fatto, perché bastava andare 50 metri più avanti, ti mettevi nella mezzeria, aspettavi che la moto scendeva e te ne entravi a San Giorgio, invece ha tagliato completamente la strada, e tagliando la strada così al tuo momento, uno che bella anche vista, però che va a pensare che giri all'improvviso, pensi che la precedenza è la mia, aspetti che io passi, invece no, mentre stava passando lui ed è passato e la pilota in pieno. No, la cosa vergognosa è che un uomo 89 anni non le puoi dare l'omicidio colposo per legge, ma cosa va in galera un uomo di 89 anni? Perché c'è la galera, metti la patente, gliela prendono, non guida più. Però cosa lo metti? Le addizioni domiciliari, la galera le vai, a un uomo 89 anni, ma lasciamo perdere, vai giù. Ok, beh certo, sicuramente quello ormai non guida più, la patente già non tirata e non togliere la parlo più, sono un bimbo, questo è vero. Sì, ma aveva ragione, molto ciclista ha ragione, purtroppo è morto, ha ragione, aveva ragione sicuramente. Però io passo sempre dall'idea a questo, chi si compra uno di quelle moto è perché ha voglia di correre. Correre si deve andare in pista a correre, non si può correre nelle strade urbane e tantomeno quella extraurbane, perché non è possibile. Tanto più che in quel tratto di strada c'è anche il limite di velocità, anzi, tutta via del Pototono c'è il limite di velocità, perché non è possibile. Via dei punti ci sono 50 all'ora, ma se a voi giù comincia a camminare a 140, perché quando stava tirando fortissimo, premesso che aveva la precedenza, tutto quello che vogliamo. Però intanto, hai detto bene poc'anzi tu, un concorso di colpa ce l'ha anche lui, sicuramente questo gli viene riconosciuto. E dunque sarà una causa questa che durerà a lungo, perché l'assicurazione senz'altro si attaccherà anche a quello per pagare sempre di meno, ma non sappiamo come funziona l'assicurazione. Io sono sempre dell'idea che chi si compra una di quelle moto perché è uno che le piace a correre. Solo una persona stessa dice che non corre, Giuseppe Gallotta. Con un enduro. 65 anni. Con un enduro, poco cammina. Le due di cilindrata è tranquillo e pacifico. Anche perché tanti anni fa aveva avuto un incidente e era fratturata la Bulgi, si era fratturata. Ma sto parlando di 25 anni fa come minimo. E da allora è passata la gara di Curri. È stato un bene per lui, guarda, quella volta, quello incidente, intanto perché aveva anche ragione, tra l'altro, però siccome stava correndo e non ha usufruito della cifra che dovevo usufruire, questo sicuramente. Vabbè, comunque è andata così pazienza, dai. Avanti, Franco. Capa, faccia all'anima sua, dai, ho sentito un bip, qualcuno vuole entrare. Buonasera a tutti Marco, dai, stavo ascoltando, ha fatto commissioni, c'era adorati poco fa, stava mangiando e purtroppo a me stava per capitare una cosa del genere alla Buzzi Buzzi, che un signore anziano è uscito da quelle stradine laterali proprio così senza guardare, però la colpa è anche mia che ero a 120, no? Dove c'è il limite di 50. Semplicemente era libero, ho voluto fare una tiratina e mi vedo questa macchina uscire. Per fortuna ero abbastanza lontano, ho inchiodato subito, ho uscito il fumo dalle gomme. No, mi sono fermato abbondantemente in anticipo, però vedi, la colpa sarebbe stata in parte mia. Ma Marco, guarda che quegli enduro lì camminano, avvicinano i rapporti corti. Quando tu sei fermo e parti da un semaforo, a rapporto corto, Gianni già lo sa. Si sviluppa in 100 metri a una velocità assurda. Io ho avuto il Transalp CE50, in scatto praticamente prima seconda ti solleva dritta la moto, perché sono moto, non sono tanto moto da strada, sono moto da enduro, quindi hanno una grande apertura, una grande velocità, una grande ripresa. Poi hanno un limite rispetto alla moto da strada, però in apertura volano con le moto, quindi sicuramente lui, come è partito dal semaforo i punti, ha iniziato prima, seconda e terza, e la moto è andata in velocità e non ce l'ha fatta fermarsi, anche perché non era un Suzuki di ultima generazione, quindi sicuramente non era una moto che frenava in pochi metri come possono essere quelle di ultima generazione adesso. Intanto è morto, vabbè, così è, va bene. Avanti Gianni, riprendi. Ciao Marco, comunque buonasera, ben sentito. Ciao Marco, buonasera, ben rientrato. Vabbè, volevo dire un'ultima cosa riguardo insomma la responsabilità degli individui, cioè poi chiaramente rispetto per quello che è successo, lo sbaglio che bisogna evitare è quello di generalizzare. Io per anni, siccome appassionato della moto, praticamente ho unito la passione per la moto con la praticità dei mezzi di trasporto. E vi posso assicurare, e testimoni tutti gli amici, tutta la gente che mi ha visto sotto la pioggia, sotto il sole, addirittura anche con il fischio, cioè io uscivo con qualsiasi condizione meteorologica. Mi reputo una persona prudente, rispettosa del prossimo, però ciò non toglie che, insomma, e lo dico proprio in verità, che tutte le volte che ho rischiato veramente di farmi male, nell'85% dei casi è per colpa degli altri. Quindi non facciamo l'errore di generalizzare. Io ho avuto un 750, poi una Yamaha 600 che faceva i 240 km orari e poi ne ho una ferma che devo andare a riprendermi, insomma, che è una bella bestia. Però giustamente, se si è responsabili, se si capisce cosa si sta facendo, avere praticamente il buon senso nell'utilizzare il mezzo, cioè le probabilità che ti succedano qualcosa sono veramente basse. Poi bisogna tenere conto anche di chi sta in strada. Diciamo che ci sono molte persone attente, però ce ne sono in macchina e molte persone altrettanto disattente. Io la mattina mi affaccio alla finestra qua e su 10 macchine che passano 4-5 hanno il telefonino in mano mentre guidano. Cioè, ne vogliamo parlare? Cioè, quindi, voglio dire, generalizzare per gli automobilisti, non generalizziamo neanche né con i motociclisti né con chi fa CB né con gli amatori, cioè, stiamo parlando della stessa cosa. C'è gente che si comporta bene, che ha un buon senso, che è responsabile, e poi ci sono i kamikaze. Quindi questo è come la penso io. Vabbè, più che altro era una considerazione che volevo fare per quella che ha detto Giulio. Comunque io stacco per 5 minuti che devo trovare la sigla di una batteria del telefono su internet. Dai, riprendo tra poco, grazie. Ok, ciao Marco. Sì, questo sicuramente, o Gianni, ti rispondo subito. Sicuramente ci sono anche le persone che sanno guidare con la testa attaccata al collo, non ci sono dubbi. Però in linea di massima, chi si compra una moto così potente è perché ha voglia di correre. E allora si lasciano prendere la mano dall'acceleratore e anche in città corrono da pazzi, non è possibile, guarda, assolutamente. Poi è vero, hai ragione, c'è tanta gente disattenta e c'è tanta gente prudente, però io passo sempre da quel principio: se uno va piano ha più probabilità di evitare l'incidente, anche se non è colpa tua, perché ricordiamoci sempre che la colpa viene dagli altri, non viene mai da se stesso, difficilmente viene da se stesso, al fuori che può succedere una caduta oppure che va a finire fuori strada perché uno sta correndo la macchina, allora è diverso, è discorso. Però in linea di massima, tutte le volte che succede un incidente, quasi sempre, almeno 9 volte su 10, la colpa è sempre dalla persona che corre. Questo è contatissimo. Poi naturalmente, come stava dicendo tu, c'è quello col telefonino in mano, c'è quello che ha addormentato, c'è quello che viene abbagliato dal sole, tante cose, c'è quello che viene abbagliato dalle luci dall'altra macchina che si sta venendo avanti. Tutte queste cose succedono. Però ripeto, intanto c'è da dire anche questo, che il pericolo, oltre al fatto che uno può evitare, il pericolo è sempre più grosso quando uno sta correndo, perché diventa un pericolo, per dire, non so, da una velocità di 50 km orario. Un minuto lo riprendo io. Considerato che per fermarsi a 50 km solamente, non più forte, a 50 km ci vogliono 50 metri per fermarsi, minimo. Solo per abbassare il freno ci vogliono 6 decimi di secondo. In quei 6 decimi di secondo tu hai percorso al minimo 30 metri. Se anche 20 metri riesci a fermarsi, ecco qual è la difesa. Ecco perché dico che bisogna sempre camminare piano. Se poi camminiamo oltre, e allora, caro mio, si può arrivare per 100 km all'ora, ci vogliono 120 metri per fermarsi, fermandosi di colpo, punto, boom, 120 metri perché la macchina è facile, è un senso da fare. Bisogna mettersi una bella in testa, bisogna camminare piano, piano, piano. Poi gli incidenti, ad effetto, succedono anche soprattutto alla velocità, questo è scontatissimo. Avanti Marco, visto che sei appena entrato ti faccio parlare, vai. C'è anche un bip, io me ne vado allontanare, dai che porto il cane. C'è un break da poco fa, Marco, fallo entrare, ci sentiamo dopo se ci siete, ciao a tutti. Scusa Marco, anch'io devo chiudere, dai, un abbraccio a tutti che c'è gente, ok? Riprendi, Giulio. Ok, ciao Marco, ciao Gianni, ciao Claudio, salutoni, arrivederci, quando coincide domani magari se possibile parleremo di nuovo anche di questo fatto, perché questo è un fatto interessante che bisognerebbe avere sempre la memoria molto fresca, molto sollecitata, perché serve a tutti noi. Avanti Marco. Ciao a chi sta chiudendo. Claudio è... mi sfugge il nome adesso. Ok. Ehi Giulio, sì, comunque la velocità un po' c'entra, perché io non... cioè, ci limita ai 50, magari va a 70, così per svertire un po', ma giorno, bella sera, c'era una bella pomeriggio, era tutto, non c'era una macchina in giro, ho detto sciogliamo un attimo la moto, ma giusto per poche centinaia di metri. E proprio lì uno è uscito dalle stradine laterali, proprio buttandosi sulla strada principale, per fortuna, vabbè, i riflessi, andavo ancora a scuola, figurati, i riflessi erano pronti, ma come mai non introducono, quando rinnovano la patente, anziché controllare solo la vista, no, le solite cose, non introducono un test per i riflessi, soprattutto, che so, per i... dopo i 50 anni di età o roba del genere, non lo fanno, no. Mi pare ai camionisti che lo controllavano i riflessi, o sbaglio? Greco? Registrato Greco, Daniele. No, non lo so, evidentemente per la patente, che perlomeno quella che ho io, la B, non lo fanno, questo cosa qua, questo controllo per la reazione dei riflessi, non lo so. Comunque sono tutti, o Marco, che la colpa è sempre di entrambi, è sempre, poi naturalmente c'è quello che viene pagato perché la colpa da gli altri, perché non è stato prudente, non ha dato la precedenza, ha sbagliato, quello che vuoi, però anche chi ha ragione, se camminasse leggermente più piano, sicuramente si farebbe meno male la gente, le persone si farebbero meno male, questo è scontato. E questo vale anche per i periodi, e tu li vedi, dice io sto attraversando nel passaggio pedonale, sì, d'accordo, tu stai attraversando nel passaggio pedonale, però scendi improvvisamente dal marciapiede, prima di scendere dal marciapiede, devi vedere se sta arrivando la macchina, perché se no, se ti investo anche nel passaggio pedonale, la colpa è la mia, d'accordo, perché la legge è quella, però ricordati che non è solo la mia, è anche la tua, che sei sceso improvvisamente dal marciapiede, o sei uscito da dietro una macchina dove io vado con la non ti posso vedere. Ecco, c'è anche di dire questo. E lui ha, per carità, guarda, ecco per quale motivo dico, bisogna camminare piano, in modo che uno possa evitare più volte possibile. Avanti Daniele. Gava. Salutone circolare a tutti! Ciao Daniele, salutone, io e Marco siamo rimasti, gli altri sono tutti andati via, perciò siamo rimasti soli, io e Marco. E così è Marco, mi spiego com'è la questione, ripeto, è chiaro che quando succede un incidente la colpa è di uno, però io coinvolgerei anche l'altro, guarda, perché un minimo di percentuale di colpa ce l'ha sempre, perché vediamo come tu stavi guidando, vediamo se tu stavi camminando troppo forte, vediamo se hai le gomme, se le gomme sono buone, la frenata è ultimale, c'è tante cose sono, guarda, io penso che venga considerato anche questo particolare, perlomeno l'assicurazione, la compagnia assicuratoria le considera queste cose, Marco. Perché quella tende sempre a cercare di diminuire il discorso cifra che deve pagare. Ecco. Ciao Daniele, ben sentito. L'assicurazione controlla molti parametri per pagare il meno possibile, per dare parte di colpa all'altro, insomma. È lungo il discorso. Comunque è vero che la moto potente invoglia a tirarla. Perché chi è che non ha mai tirato una moto un po' potente? Più potente è, più la si tira. E se no che senso avrebbe? Allora tanto vale comprare uno scooter 50, ecco, che massimo farà gli 80 orari, che non sono nemmeno pochi. Va bene, dai, riprendi Daniele. Cava, cava. Giulio, ti mando una foto, mi serve un consiglio. Questo è il campo tuo di legname. Manda, manda. Così mi dici cosa li posso, che trattamento li posso fare su un soppalco. Aspetta, te la mando. Riprendi, che è entrato Gianni. Caffa, sono rientrato. Sì, stavo controllando su internet la sigla della batteria di un telefonino per vedere se riuscivo a trovare un ricambio. L'ho trovata, per fortuna, visto che il telefono non è così comune. Vabbè, Marco, l'ho salutato, ho visto che il segnale, la radio, la modulazione è stata ripristinata, quindi bene meda, sono contento. Ehi, già, ma io non so nemmeno cosa è successo, perché io avevo solo interposto un rosmetro, che l'ho tolto, avevo cominciato a fare quella scarichetta, poi questa radio è calata, non so, magari era solo un po' di ossido sul trimmer della M, qualcosa di minimale, dai, adesso vedo che sale, un pochino sale, dai, certo, non è amplificato il microfono, è quello di serie. Vabbè, e comunque le due ruote, mamma mia, sempre pericolose sono. A me anche da fermo, una volta un tram mi ha rovesciato, una volta un anziano che è uscito dallo stop. Se sei su quattro ruote almeno non cadi, magari non ti fai nulla, però l'incognita c'è sempre, ho già. Lo so, sono cose talmente ovvie, cioè il discorso è bisogna anche camminando a piedi. Cazzo, se tu camminando a piedi basta urtare una persona, dargli una spallata, quella cade, sbatte la testa in terra, cioè vuol dire, e se cammini da piedi, quindi vuol dire bisogna essere coscienti di quello che si fa. Poi giustamente più il mezzo è performante e più il tasso di rischio aumenta, ma cioè, bisogna fare le dovute distinzioni sempre tra chi è un kamikaze e tra chi praticamente guida con prudenza, capito? Quindi, ma con tutti i gozi, cioè io ti posso dire che ho visto anche autisti dell'ATP col telefono in mano, cioè ne vogliamo parlare, quindi cioè, ce ne sarebbe da dire, quindi voglio dire, chiaramente poi se uno si comporta così se ne deve assumere responsabilità. Io tutte le volte che in moto ho deciso di camminare l'ho fatto sempre in piena sicurezza, è chiaro che sei sempre per strada e quindi sono delle incognite e lì bisogna anche sapersi limitare. Poi c'è quel discorso delle fatalità. Le fatalità non si possono controllare, quindi dal costone di roccia a qualsiasi altra cosa, all'albero che ti cade all'improvviso, quelle cose lì non si possono controllare e lì la colpa non è di nessuno, capisci? Però certo che se io esco col proposito di fare lo stronzo, è chiaro che poi me le tiro, no? Capito? Quindi è un discorso abbastanza ovvio. È come una pistola, la pistola stessa dentro il cassetto non fa male a nessuno, però dal momento che la usi te ne devi assumere responsabilità. Certamente non stai andando a giocare se decidi di portarti una pistola appresso, capito? Quindi vuol dire, è uguale, quindi bisogna essere persone serie, persone di buon senso e cercare di comportarsi al meglio all'interno di una comunità, capito? Ahia. Purtroppo, poveretto quello, vedi? Naturalmente quello di 89 anni, sì, non va fisicamente, però perderò la patente e se la dimenticherà, gliela stracceranno davanti, figurerà qualcosa sulla carta forse, ma non mandano un 89enne in carcere, capito? Macello, vabbè, adesso ho la moto, storia da altri tempi, dai. Buon viaggio, ogni tanto i problemi sono altri adesso. Giulio, ci sei? Ma mi avete chiamato? Io non è che voglio generalizzare, Gianni, l'impatto di prudenza, eccetera, eccetera, questo no. Però tu devi convenire con me che il solo fatto di avere una moto pesante, anche se uno cammina piano, cammina con la testa, io ho visto delle persone che si hanno spezzato la gamba fermandosi con la macchina, con la moto, perché gli si è rovesciata la moto addosso col peso che ha. Io questo, la caviglia di una persona una volta gliel'ha spezzata, non so come abbia fatto questo, so solo che mettendo il piede per terra per fermarsi gli si è rovesciata la moto addosso perché è troppo pesante. Se ti puoi immaginare quanto è pericolosa quella moto, e indipendentemente dal fatto della velocità che uno la può portare con la testa a posto oppure da fuori di testa. Servissimo, è inutile, le due ruote sono sempre state pericolose, anche la bicicletta è pericolosa per quello. Oggigiorno ci sono tanti automobilisti che non fanno altro che falciare i ciclisti, ogni tanto ne ammazzano uno, soprattutto fuori il continente dove la bicicletta viene usata molto, ogni tanto ne ammazzano uno, per dire. Sicché vediamo bene, io oggi da persona adulta di una certa età, premesso che mi piace moltissimo la moto, anzi devo dire che mi piace più viaggiare con la moto che con la macchina, e io la moto non la potrei, ma non da adesso, io sono tantissimi anni che non guido la moto a due ruote, perché fino a 3 anni fa avevo anche la moto a 3 ruote, avevo io, cioè per quello, l'APE, che la usavo per lavorare, era una moto APE che la usavo io per lavorare, per il trasporto del materiale, del lavoro che facevo, eccetera. Ma per dirti, ecco quanto io oggi la stellerei la moto di guidarla, proprio per questo motivo, perché anche se sei prudentissimo tu, ci sono gli altri che ti vengono addosso, e quando ti vengono addosso alla moto hai sempre da piangere, nonostante che tu puoi avere la precedenza, la ragione, quante ne vuoi, tutto quello che vuoi, però chi prende colpi è sempre molto ciclista, ecco quello che intendevo dire, Gianni. Per cui la moto io veloce, la moto quella veloce di una certa potenza, la lascerei alla cosa, dal concessionario, o perlomeno me la comprerei per andare in pista, a correre in pista, a togliermi quelle soddisfazioni e a sentire quell'adrenalina della velocità. Io la userei, ma in città, ma nella persona, nemmeno se ne pagano. Bellissimo, poi ognuno chiaramente la pensa come crede, tu sei giovane e la puoi usare con soddisfazione la moto, però quello che volevo farti notare, la pericolosità della moto, in tutti i sensi, anche quando uno guida piano e guida con la testa a posto. Vai Gianni. C'è qualcuno che vuole avanzare, avanti. Eia, non avete chiamato prima? No, Daniele, non abbiamo chiamato, se ti ha sentato, non so cosa contattiamo lanciato. Vai Gianni, è entrato Daniele anche, quindi Gianni. Buonasera Daniele, ben sentito. Sì, vabbè, giù, adesso non è, stiamo chiacchierando, quindi non è, il discorso è molto ampio, cioè è molto grande, potrebbe toccare tante cose, cioè non è che, per carità, ce l'ho con te, perché giustamente tu chiaramente hai una visione delle cose in un certo modo ed è giusto che sia così, però dico da individuo che ha usato la moto per tantissimi anni e che l'ha usata sia per lavoro che per... Ti posso dire che hai ragione, cioè chiaramente usando un veicolo a due ruote sei chiaramente esposto a tutta una serie di pericoli, come lo è il ciclista, come lo è chi guida la Vespa, come è chiaro, sei sempre esposto a tutta una serie di pericoli che tra virgolette chi viaggia su un'automobile praticamente questi rischi non ne ha. Senza ombra di dubbio è assoluto, è vero, cioè, è una verità. Quello che ribadisco io è che oggi come oggi praticamente la gente è molto distratta da tutte le parti, sia che sia in bicicletta, sia che sia col ciclomotore, sia che sia in macchina, cioè si vede in giro molta gente distratta. Chiaramente non tutti sono distratti, ci sono quelli che sono attenti e quelli un po' più distratti, capito? Cioè non mi sento, in questo momento non voglio accusare nessuno, cioè nel senso, poi ti ripeto, te ne potrei raccontare mille di queste cose. Poi riguardo a quello che è successo io non mi sento di prendere nessuna posizione, per carità, mi dispiace per quella persona che ci ha lasciato la pelle, non sono cose belle, secondo me bisogna rimanere un po', insomma, adesso questa moda di accanirsi troppo, credo che non sia utile a nessuno il fatto di stare, insomma, a sentenziare così. Vabbè, dai, se no monopolizziamo troppo il canale. Ok, avanti Marco. Io la cosa, quando succedono queste cose, mi immedesimo. Dico sempre, potevo essere io, come quella volta lì, che io non è che corro, poi cosa vuoi correre con un'onda 400 di allora, del 77, però la volta che ho voluto tirare un po', vedi, è capitato. È proprio l'aumentare della velocità, il rischio di casini, incidenti aumenta esponenzialmente. Uscire di tutto, un bambino correndo da una villaletta, da un cane, qualsiasi cosa, una pecora, e l'impatto è molto, non sei su quattro ruote, sei in bilico e cadi e ti fai male. E l'asfalto è duro, mamma di turchi, poi avevo il vizio di andare nelle zone di mare, o Giulio o Gianni o Daniele anche, non è che mettevo il chiodo in estate, non sudavo, andavo in magliettina, quindi figurati, raschiarci le ossa sull'asfalto in ciabattine, ma tipo pantaloncino e maglietta, no, figurati l'impatto con l'asfalto, mi avrebbe scorticato fino all'osso. Vai Daniele, e tu la moto la guidi? Ho avuto due di moto e poi ho venduto tutto. Non voglio più sapere. E io più che altro spese, umidità, non ho più 20 anni, non ho più voglia, Peccato però, ma oggi ti volevo chiedere, ma che era successa una cosa analoga? Che gli si rovesciasse la moto pesante e si era fatto male o alla gamba o alla caviglia? Per caso Danilo, quel ragazzo che scende da Viale Trento, via Gorizia o da quelle zone là, ti risulta? Anni fa però, mi ricordo, però era successo in movimento, era lì uscendo da Sassari, le curve di Loculento, e praticamente ha beccato praticamente la scia, una strisciata di liquido che insomma perso da un camion della Mondezza, e praticamente ha cercato di non prendere questa scia di liquido, la moto è scivolata e gli è caduta sulla gamba, capito? Gli ha rotto la gamba, cioè, capito? Sì, tanti anni fa, lui aveva l'Harley, se non sbaglio, no? KK. Giulio, ti ho mandato la foto. Sì, va bene, la guardo. Sì, stavo dicendo, lei, anch'io Gianni, la moto l'ho guidata per tantissimi anni, non è che l'ho guidata, però io non ne ho fatto mai di pazzie in moto, e spero che i giovani di oggi ne facciano più di pazzie, perché oggi è diventata una mola fare le pazzie in moto. Io non dimenticherò mai un certo John Pinna, che tutti quanti a Sassari lo conoscono, nel corpo, tutte in distintamente ce l'ha tutte trattorate dalla moto. Perché? Perché era pazzo con la moto. Io mi ricordo allora in quegli anni lì c'era la moda di andare nelle curve di stare di giorno, a fare le curve, e c'erano tantissimi giovani che andavano e facevano le gare lì, salendo in scala di gioca, per dire, no? E c'era questo John Pinda, che era proprio uno dei più veloci, diciamo, quello ha preso tante di quelle calice e si è tutto fratturato, quello non ha in corpo un osso che non sia stato fratturato, dalle braccia alle gambe, dal femore alla caviglia, tutto, cioè tutto. Poi, e tanto non imparava, per dire, no? Questa gente pazza, secondo me, questi che fanno queste cose qua. Che non è possibile che si possa, e così anche il figlio è stato un pochino stravagante molto, e anche il figlio, non solo anche lui ce ne ha avuto di fratture, ma anche il figlio è stato abbastanza stravagante, per dirti, no? Allora, prima si usava questo tipo di attività così, la moto, ripeto, è bellissima perché è un mezzo di trasporto eccezionale, e per gli appassionati è addirittura più bella, è più soddisfacente della macchina. Però non è possibile, bisogna guidarla con la testa. Ma oggi, io parlo di oggi non è possibile nemmeno più guidarla, perché c'è tanto di quel pericolo in giro che è ancora una cosa impossibile. Prima c'era meno traffico, dunque mettendoci meno traffico, con meno possibilità di incidenti, eccetera. Ma oggi, ma per carità, questo vale anche per gli automobilisti. Macchine fare spese sono sempre di più i vostri circuiti. Anche gli automobilisti chiaramente vengono feriti, vengono addirittura ammazzati dall'incidente, questo sì. Però io parto sempre da quell'idea. L'incidente, la pericolosità dell'incidente è sempre subordinata alla velocità. E se uno va piano, prende il corpo, tracci la macchina, ti rompi la testa, però magari ti salve e non ti ammazzi. Ecco cosa intendo dire, Gianni. Mi prendi, Gianni? Sì, giù, questo l'ho capito dall'inizio, cioè, spero che ci siamo capiti tutti e due, insomma, ho capito cosa vuoi dire, non c'è ombra di dubbio, il problema è che, ti ripeto, molta gente non è assolutamente cosciente di quello che sta facendo, che sia a piedi, che sia in macchina, che sia in moto, che stia guidando un mezzo pubblico, cioè ogni tanto se ne vedono, capisci? Quindi non è una cosa bella. Con questo ho detto tutto. Io adesso per tutta una serie di motivi la moto è ferma da un po'. Devo andare a recuperarmela in campagna, così la riporto qua a Sassari e vediamo cosa farne. Chiaramente adesso la vita mi ha messo davanti altro, quindi la moto l'ho messa da parte per quello, capito? Ho altri bisogni, ho altre esigenze, quindi non è più come prima, ma non perché la tema, gli ho sempre dato del lei, gli ho sempre dato del lei, anche guidando la macchina, anzi proprio perché sono prima un motociclista che un automobilista, io in macchina guardo tutti e tre specchietti, se ne avessi 10 le guarderei 10, capito? Quindi presto moltissima attenzione quando sono su strada, personalmente. E questo è la moto, e l'approccio alla moto in questo mi ha aiutato tanto, perché innanzitutto quando incrocio una moto, quando vedo che attraverso una moto più o meno conosco i tempi di reazione da motociclista, e quindi so se mi devo fermare, tra virgolette, so se devo rallentare, fermarmi praticamente a 150-200 metri, rallentare prima di uno stop, insomma tutte queste cose riesco a valutarle, capito? Grazie all'esperienza che mi sono fatto con la motocicletta. E niente, quindi per adesso va bene così, dai. Vediamo cosa dice Marco. Io le uniche cadute erano cadute proprio quasi da fermo. No, una volta ero proprio fermo, un tram mi ha stretto, che svoltava, io ero fermo allo stop, quello stavo uscendo da via Cagliari, sai che lì è, mamma mia, prima i due stop erano anche affiancati, no? Adesso quello sinistro è più indietro. C'era uno in prova, stava guardando a destra, sono a toccare gli alberi, c'era anche un passeggero, detto, questo ci becca, questo ci stringe, manca un tempo di premere il clacson, ci aveva già rovesciati a, sul lato destro, no? Poi quel farabutto, l'esaminatore lì dell'ATP ha detto, poi dice vediamo se devi pagare il graffio che hai fatto alla moto. Morale, lui è andato a dichiarare, siccome io sono scemo, cioè sono scemo ma non fino a questo punto, ha dichiarato che io passando col rosso mi scontravo col tram, non è valsa la testimonianza del testimone con me, non è valsa la testimonianza di quello che c'era a destra con la macchina, sull'altra corsia di destra, niente. Loro dicono, io non posso dare del bugiardo al mio cliente, capito? A parte lì, cosa gli fa? O gli parti di testa, non lo so, ma poi peggiore la situazione. Una volta un anziano, sempre, sì, ha rallentato lo stop, ho rallentato anch'io, perché ho detto attenzione che all'incrocio, sai, quello può interpretare male. Questo vedendo che rallentavo, ha rispuntato quando ero davanti a lui, quasi, semplicemente mi ha toccato la scarpa col paraurti, è come quando tocchi il marciapiede che si indici un motto, mi sono sbilanciato e caduto a destra. Anche lui prima sì assicurazione, poi dice ah io non l'ho toccato, allora così è sporca la cosa. Va bene, comunque cadute stupide proprio, non, manco un graffio per dire, io non le conto nemmeno come cadute. Guarda, io una volta sono caduto tornando da Trentino, andavo in Lambretta a lavorare a Trentino, no? Allora ero dipendente e mi aveva mandato a Capo Falcone, quel locale, tanti anni fa, l'avevo fatto tutto l'arredamento, banchi, bar, tutte queste cose qua, porte scorrevoli, eccetera, eccetera. Sto parlando di tantissime anni fa, ma tanti veramente, ero dipendente ancora, pensavo fuori, non chiamo mai. E avevo io la Lambretta, sono a un certo momento nella curva più larga, più bella, più isolata da ogni tipo di veicolo, ma io sono caduto. Perché? Perché c'era della sabbietta per terra, sono scivolato, sono rimasto attaccato alla Lambretta e mi sono graffiato tutto il fianco, soprattutto l'avambraccio, tutto il fianco l'avambraccio. Il pantalone mi si è cucito dalla cintura fino all'orlo della caviglia, per dire, no. Sono andato lì a Posta San Nicola, mi sono fermato perché ero anche uno scandalo a entrare così in città, io stavo rientrando da Trentino la sera. E una donna anziana, una donna vecchia, mi ha dato un ago, un pezzo di filo, mi sono cucito così appuntato per il pantalone perché sennò sembravo con la gonna, sembravo. Per dire. E sono stato mesi, tutto l'estate per guarire o Marco. Perché? Perché l'asfalto mi aveva bruciato proprio completamente, mi aveva tutto l'avambraccio e parte del fianco, per dirti, no, figurati un po' se io non stavo correndo, sono caduto perché sono scivolato con la sabbia che un camion aveva perso facendo mentre transitava, per dirti, no. Figurati un po' se sarei stato correndo, ui mamma mia, deve essere tu, ancora in volo sarei stato, purtroppo è così. Bene, adesso vediamo se mi ha mandato questo messaggio, perché poco fa non è arrivato niente. Mi vedi Daniele? Ehi a Giulio, ma io c'ho un numero tuo, infatti dove mi hai scritto non ce l'avevo salvato, non so se è giusto. Aspetta un secondo, guardiamo se mi dai conferma. Aspetta un secondino. Aspetta. Perché io c'ho questo che finisce con 99 finale. Questo è il tuo, Giulio. Sì, è quello. Adesso mi è arrivato comunque, dai, adesso è arrivato. Non si vedono accidenti. Cosa si vede? Aspetta, te la rifaccio con un'altra angolazione. È un soppalco giù, aspetta. Riprendete. Riprendo io. Vabbè, un paio di volte mi è successo che sono caduto da fermo sotto casa, nel senso che mi si è aggrappato il ragno ad una zampa del pantalone mentre stavo scendendo dal cavalletto. Il cavalletto poi si è richiuso e praticamente, già lo sapete cosa sono i ragni, sono quegli elastici con un sacco di ganci, e praticamente mentre scavalcavo la sella mi si è agganciato praticamente un gancio a un pantalone e sono rimasto praticamente intrappolato, sbilanciato e mi si è coricata la moto da 250 kg addosso. Meno male sono riuscito ad accompagnarla e non è successo niente, vabbè, giusto l'incassatura e la leva delle frizioni piegata. Giulio, guarda adesso. Sì, adesso guardo, dai. È vero male che sia andata bene, o Gianni, meglio così che sia andata bene, per carità, ci mancherebbe altro. E purtroppo, sono incidenti, certo, sono incidenti, non ci sono dubbi, questo è. Noi già alla fonte certe cose le eliminiamo, sicuramente vivremo meglio. Adesso guarda Daniele, riprende Marco. A me siamo davanti a Rotang, stiamo parlando dell'anno di grazia 1990, giù di lì. A costo lì, no, c'era questa erbetta, pari, no, bordo strada, al di fuori dell'asfalto, no? Il cavalletto mi pare forse sul lato destro, sì, qualcosa del genere. No, comunque no, vado a mettere il piede a terra a destra, cioè l'erba era pari, no? Per tutta la larghezza, però c'era un fossettino e l'erba che era cresciuta pari a quella, tutta in larghezza era di pari altezza e sono finito nel fossettino. Attualmente ho allargato subito le gambe in modo da mollare la moto e non rimanere con la gamba sotto. Poi mi sono fermati dei ragazzi con la grazia, mi hanno aiutato a togliere il fossettino, no, era leggermente infossato. Manco per la figura, e infatti lì ho dovuto inventarmi che avevo schivato un gatto e mi sono buttato sul lato destro per investirlo. Era troppo sporca, se no che c'è. Vabbè, e poi tutti preoccupati, dice, ma voi che chiamiamo un'ambulanza? Oh, non c'ho nulla, ho mollato la moto, l'ho lasciata finire nel buco lì e basta. Vabbè. Oh, comunque, caspita, io sto vedendo che qua sono passate le 8 e devo fare una commissione in fretta pure al market. Dai, vi devo salutare. Ciao Giulio, Gianni, Daniele, tutti quelli all'ascolto, e chiudo per oggi, dai. Ciao a tutti, vai Gianni. Ok, ciao Marco. Buon praticamente di serata e buon tutto. Alla prossima, dai. Ok, dai. Avanti giù. Chiudo anch'io, dai. Ciao Marco, saluto Tony. A domani. Fatti sentire Marco, sei troppo assente, sì. In questo periodo. Vabbè, dai, chiudo anch'io Gianni, ciao. Grazie per la chiacchierata, grazie anche a te Marco. E anche a Daniele. Ciao Daniele. Dai, ci sentiamo per te bene, poi Daniele, dai. Chiudo, che devo scendere per la cena, dai. Ascolto fino a io, poi chiudo, ciao. Dai, riprendo io. Ciao Giulio, ciao Marco, buon proseguimento, dai. Ci ascoltiamo domani. Vabbè, aspetta che qua sta fischiando. Riprendi Gianni. Faccio correnti anche io, dai ragazzi. Ne approfitto così vado a mangiare anch'io e mi sistemo le altre cose. Dai, buona serata, buona cena, ci sentiamo alle prossime. Ok, buona serata a tutti. Ciao ciao. Capparrogero, dai. Va bene, ci ascoltiamo domani, io già lascio acceso qua, poi chi vuole entrare ci sono. Io sono entrato adesso col cane, però non anche io l'ascolto, sono già le 8:20. Ok, ciao Gianni, ciao anche a Giulio, ciao a te Daniele, Marco, insomma chiunque fosse sul 10, dai. Ehi Acla, salutoni dai. Comunque questo era stamattina anche acceso, Acla. Ma non l'hai spento perché? Zero, sistemato un filo, in pratica come gli ho tolto quel, lo stacca modifiche, gliel'ho saldato direttamente alla scheda dove era l'altro, e adesso è diretto, non c'ho più stacca modifiche, zero, e per adesso non si è staccato niente. E ma lo devi spegnere e riaccendere, comunque c'è un numero forte adesso, più di stamattina. Diretto il cavo, il cavetto, dai, là. C'era una resistenza, che c'era un cavetto che andava allo staccamodifiche e un altro cavetto che usciva andava alla, alla scheda, boh, non so dove il cavolo va perché non lo vedo. Adesso è diretto, diretto, zero, ingrediuti strani. Sì, 9.15, figurati tu, adesso sta dando sicuramente tutta la potenza e... sta erogando anche bene la radio. Ehi, io me ne accorgo anche dal pallascolto, ma se la mia impressione. E va bene. Vedi, come risposto i tedeschi alle volte. Va bene, dai, riprendi qua, se vuoi continuare, se no io la lascio acceso e poi ci ascoltiamo domani. Ascolta, per il pallascolto, mettiti una colonnina esterna, Daniele. Ce l'ho qua. C'ero, gli ho messo una della JVC, del, dell'Onkiat, piccolina, e sto andando con quella. Però innesca, innesca, macchina non viene rubati lo figlio del pallascolta, ma cosa serve? A nulla, vedi, adesso ho trovato la posizione giusta, secondo come mi sposto col microfono innesca. Però ve lo fa dopo un po' che è accesa la radio, capito? Adesso che si scaldi e entra tutto in funzione e fa questo difetto qua. Allontanala la colonnina, mettila più lontano possibile dalla radio, da dove parli tu, non te l'attaccare alla radio, allontanala e vedi che non innesca. Buonasera. Ecco fatto. Adesso non dovrebbe più innescare. No, ciao a te. Ciao a tutti, non so neanche chi c'è. E io e Daniele siamo. Penso che tu. Va bene, ciao Daniele. Buonasera Tino, ben ascoltato. Rientrando. Rientrando e poi facendo una operazione al computer. Che dovevo farlo, per forza. E io stesso mi sono uscito a portare il cane. Sono rientrato adesso. Manca ancora 10 minuti poi. Ci andiamo a pappare, sono stanco molto anch'io. Oggi con la scusa che non mi sono potuto muovere perché ho senza macchina, sono dovuto lì pedalare in divorzi. vabbè dai, ci sta anche dai, ci sta almeno. Smaltisci anche tu. Non eravamo giù, stavamo risistemando un po' tutto, perché hanno rivoluzionato un po' la sala radio, quindi abbiamo rimesso tutte le cose come... come erano principalmente adesso. Ma da te, ma dove ce li hai tu le radio nel salone? Sopra quella messo? Sì, io non da me, no. Giù, al bunker. Ah, per sabato e domenica l'ho messo tutto a posto. Insomma, l'hanno utilizzato e poi adesso sono nuovamente sistemato. No, io ce li ho, sì, sotto quella mensola, però con un altro tavolino, diciamo, non tavolino, un pesce, dai, dove c'era l'acquario prima, non so se ti ricordi, dove un po' di oggi. Ho eliminato l'acquario e l'ho riempito di radio. L'ho sistemato, tutto qua dentro. Sottovolto. Ma voglio capire, scusa Daniele. Stai parlando di là, ci siamo capiti, ma la parte amatoriale pure hai rimesso a posto tutte le radio che stava provando, già abbandonato? Abbiamo messo tutte le radio amatoriali in posizione come erano prima, siccome sono state spostate per il compere. Ho capito che adesso ci siamo capiti, vabbè. Vabbè, chiaramente bisogna mettere a posto. Incluso che sia hobby, che se niente non travaglia, lascio gli hobby. Vabbè, ma Giulio è andato via, Daniele. Capacla, hanno tutti chiuso, Gianni, Marco, Giulio, hanno tutti chiuso. Siamo arrivati noi tre adesso. Via, devi cercare una posizione per quella... questo lato parlante, se no se ti avvicini innesca, capito? Questo arriva molto bene, avanti ti. Sì, vabbè, anche io adesso muovo, sono entrato a fare quell'operazione al computer, devo farla per forza e adesso vado a prendere la doccia, al limite se coincide è più tardi, che anche io sono stanco, direi. Sì, scusa, non dio una cosa un po' pesante, ma sempre, anche quando lavoravo, stai tutta la settimana, un pesante la domenica, andendo, dormendo, vende, lunedì sei più stanco delle altre volte, va bene, beh. Io non lo so, se mi vuoi accendo, se no mi guardo, c'è la finale dell'Isola dei Famosi, che l'ho seguita, voglio vedere chi vince, e poi vediamo un po' di sport, forse qualcosa, non giocava in Cano Garenzo, rinchiusami. Beh, però se coincide già accendo dopo, anzi lascia acceso, Ok, ciao Daniele, chiudo anch'io, vado a sistemarmi, sono entrato 5 minuti fa col cane e poi vado a cenare che mi pare sia già pronto anche, dai. Se coincide a dopo, altrimenti a domani, cordiali saluti a tutti, ciao. Aspetta, un'ultima cosa, Clark, così almeno mi tolgo un dubbio. Guardami questo segnale ora che non c'è niente, questa è liscia liscia. Un attimino, guardalo bene e ti giro l'altra radio. Questo è un pelino a 9.10, un pelino, vai. Eccolo qua, questo è l'altro. Quello sempre, vai. E questo qual è? Sempre di solito triche ballacche? Sì. Sempre sui di 5 watt, giusto per capire una cosa. Sì, quasi 10 dB meno, 9,2, 9,3. L'altro è... parte da un watt a 18 modulati, ti puoi immaginare. Ma male fa 7,0 l'altro. Ma questo sia come segnale che come radio, questo non si è capito se a cavolo ci abbia, ma è brutta la radio, non ti posso dire che è bella, è compressa, è chiara, si capisce, ma è compressa, non è bella. Ho capito, ma pure riallenata, dai, diciamo, va bene, d'accordo, va, ti lascio, ciao. No, questa è una canonata, questa è un 44, un centro a fare, la tua modulazione, bella spinta, il segnale 9,10, non ci sono problemi. Dai, se coincide a dopo, altrimenti ritenetevi salutati, buona cena con tutto, ciao. Va bene, ciao. Ok, Cla, dai, già lascia acceso io qua. Poi che quando sento qualcuno già entro. Riprenditi. Sì, non andare a farsi la doccia, ciao, sentiamo dopo al limite. Ehi, Cla, dai, che anche adesso vado a mangiare, dai. Buon proseguimento e buon tutto, dai, ci ascoltiamo dopo, domani se coincide, ciao. Ciao, Daniele, prova a spegnerla e riaccenderla dopo. A vedere come si comporta, perché è lì che vedi se tutto è a posto, capito? Cappa, adesso l'accendo, ma la spengo un po', l'accendo, sì, buonanotte, ma la spengo e poi prima di andare a nanna provo a riaccendere le osarice. Esatto, visto che ho messo il filo diretto, così vedi se il sistema funziona e se è tutto in ordine, ok? Ci sentiamo dopo, ciao. Cappa a Roger, vai, ciao. Ma dove ti aspettare? Chi è basso, avanti? Claudio, mantieniti sempre la fronte, sia che tenescono la cervella quando fai queste cose, capito?